Sì, infatti volevo, ma io sono piuttosto disinformato su questo argomento. Non c'è un anello che ha, oltre a questi incontri, che lega un po' tutti questi problemi e la voglia di dire di no? Ad esempio, qua pare sia in esecuzione il progetto definitivo per la TOEM. Dall'altra parte di Milano c'è la Pedemontana, la Bread & Me, stanno allargando due statali, c'è la TOEM e hanno stanno potenziando delle linee ferroviarie che poi però non prendono capillarmente paese per paese, ma puntano solo alle grandi masse di Bergamo e Brescia, sì. Addirittura io ho la ragazza che abita da quelle parti, per esempio nelle piccolezze, hanno allargato nel giro di 2 anni, 2 volte lo stesso cavalcavia, probabilmente perché non si sono messi d'accordo col progetto di ferrovia e autostrada. E quindi hanno rifatto 2 volte l'allargamento dello stesso cavalcavia, e anzi di una serie di stessi cavalcavia, mi sembra. E quindi mi chiedo, esiste, o a Firenze hanno un problema di TAV anche lì, o in altre parti, io magari sono disinformato, esistono altri casi, adesso mi pare di avere altri più gravi. Quindi guardando l'orizzonte vedete qualche modo per fare una comunità serrata contro questo tipo di politica, magari anche arrivando nelle istituzioni a dire la propria, candidandosi da sindaco fino a primo ministro probabilmente, insomma.